Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte nona. Arrivati in città, l'auto innesta la sirena, passa col rosso. L'autista si diverte a andare forte, si vede che nella grande città si diverte a fare accelerate brusche, a frenare improvvisamente, a superare tutte le altre macchine, poi improvvisamente, dopo un casino di curve, che a me sembra sia una curva sola che non finisce mai, si blocca davanti a un grande portone di un palazzo tutto illuminato da luci gialle, da cui entrano e escono le volanti, con la luce azzurra sopra che gira, e leggo su una piastra lì davanti sul muro questura. I poliziotti davanti al portone fanno segno alla nostra macchina di entrare e quello si infila con la solita accelerata brusca nel portone e poi si blocca coi freni che stridono tra una fila di volanti celesti e bianche. Prima di scendere chiedo: ma non dovevamo andare in tribunale per l'interrogatorio? Quello che è davanti, che è il graduato, mi risponde che il tribunale a quest'ora è chiuso da un pezzo e che sarò interrogato lì in questura, che i magistrati sono già lì, che mi aspettano. Scendiamo e mi fanno entrare in una porticina del cortile che dà su una scala strettissima che si può salire solo uno per volta e cominciamo a salire per questa scala, io davanti e tutti gli altri dietro. La scala gira ogni 10-15 gradini, sento lo scalpiccio dei nostri passi che rimbomba in quello spazio stretto e continuiamo a salire le scale, non finiscono mai, scale e pianerottoli a non finire, mi viene il fiatone. Ogni tanto mi fermo a un pianerottolo, ma quello dietro mi dice sempre «su, su». Siamo all'ultimo piano, evidentemente perché non ci sono più scale, e dopo un breve corridoio sbuchiamo in una saletta, con due poltroncine e un divanetto rivestiti di plastica verde, un po' unta. Mi fanno segno di sedermi lì. Il graduato esce da una porta e rientra subito e mi dice di andare là dentro, in un'altra stanza piccola, che è piena di gente, tutti in civile, per lo più giovani, in jeans e giubbotto, con la barba e anche con i capelli lunghi. Non avevo mai visto dei poliziotti travestiti da compagni e la cosa mi ha meravigliato un po'. Non capivo perché c'era lì tutta questa gente che mi aspettava. Poi ho capito che era la conclusione di un'operazione di polizia a cui evidentemente avevano partecipato e di cui io ero la conclusione. Dietro la scrivania stretta e lunga c'è un tipo lungo e magro che mi getta un solo sguardo, serissimo, appena entro e poi riprende a leggere su un mucchio di carte che ha davanti. Mi fanno sedere su una sedia di legno, sgangherata, che sembra sfasciarsi da un momento all'altro, e scricchiola anche se mi muovo appena. Sono seduto davanti al tipo lungo e magro, che sta sempre con la testa bassa sulle carte, e quella faccia la riconosco, perché l'ho già vista, sui giornali. Quello lì è il giudice Lince. Gli altri sono tutti in piedi, appoggiati alle pareti. C'è pochissimo spazio tra loro e la scrivania e quando c'è un nuovo che deve entrare c'è un movimento generale per farlo passare e tutti quanti si pigiano contro la parete. Una porta della stanza è aperta e fuori c'è altra gente che cammina avanti e indietro. Mi rimettono le manette americane con le mani davanti e il graduato che mi aveva portato lì dice che loro se ne vanno, che se ne tornano a casa, che hanno fatto il rapporto e che l'hanno consegnato e che c'è un mucchio di materiale che hanno sequestrato e che l'hanno scaricato giù da basso. Il giudice alza un attimo la testa e fa un cenno di approvazione e dice arrivederci. Poi subito si rivolge a me, guardandomi in faccia, e mi chiede se ho nominato un avvocato. Io dico no. Lui dice che è tardi e che a quest'ora è praticamente impossibile trovare un avvocato disposto a venire lì. ma che comunque loro ne hanno già lì uno che hanno avvisato e che se l'accetto come avvocato d'ufficio, poi domani ne nomino un altro che voglio io. Subito dalla porta aperta sbuca fuori l'avvocato. Non è mica diverso dall'altra gente che è lì, tanto che penso che sicuramente è anche lui un poliziotto e che mi stanno tirando un brutto scherzo. Però quando Lynch fa battere a macchina le mie generalità da un tipo grasso in divisa, dietro un macchinone da scrivere antidiluviano, e gli detta prima le mie generalità e poi quelle dell'avvocato, che neanche me le ricordo più adesso, dice avvocato tale, allora io un po' mi tranquillizzo e guardo l'avvocato come per cercare un'intesa, ma quello mi guarda con una faccia inespressiva, sta lì seduto sulla sua sedia, che scricchiola e giocherella con un grande mazzo di chiavi. E fa un rumore che mi innervosisce. Il giudice Lynch allora comincia a parlarmi, mi parla con un tono duro, ostile e aggressivo e mi dà del lei. Intende rispondere, ha la facoltà di non rispondere se non vuole. No, faccio io. Io intendo rispondere e cerco di essere il più sicuro possibile. E penso che quel clima è peggio di tutti gli interrogatori che mi hanno fatto nella mia vita, tutti i maestri, professori, eccetera. Lei lo sa di cosa è imputato, vero? No, non precisamente, ma non le è stato detto niente quando l'hanno fermato. No, niente di preciso. Il dottor Donnola mi ha accennato a delle armi che sarebbero state trovate in una casa che io avevo affittato 3 anni fa. E intanto il tipo dietro al macchinone da scrivere comincia a battere con un frastuono indiavolato, che si mischia alle parole che sto dicendo e mi innervosisce, così che quando quello smette per paura di non essere capito, ripeto tutto da capo. Punto, fa Lynch. Lei ammette allora, ammetto cosa, dico io? Che la casa era affittata a me? Sì, che l'ammetto, c'è anche il contratto. No, volevo chiederle se lei ammette che le armi trovate lì sono sue. No, ma quali armi? Io non ne so niente di queste armi, non so chi può averle portate lì. Ma come? Lei non sa che c'erano delle armi a casa sua? No, no, un momento, io non abito più a casa mia, in quella casa, insomma. Io non ho mai detto che abito in quella casa e intanto guardo preoccupato quello che scrive velocissimo, come una mitragliatrice, senza alzare un attimo la testa. Lynch capisce e mi dice di stare tranquillo perché poi lui mi farà leggere il verbale e che se non sono d'accordo non lo firmo, ma che bisogna scrivere tutto quello che si dice. Comunque riprendo a parlare e dico che in quella casa io non abito più da più di 2 anni e che l'ho subaffittata. E Lynch chiede subito a chi, come se non aspettasse che quel momento, e scatta in avanti, guardandomi fisso, e io resto di merda e penso che casino, e adesso come faccio? Non posso mica fare il nome. Ma Lynch riattacca subito come leggendo quello che pensavo e mi dice: se non intende rispondere, guardi che si può anche non rispondere alle domande. Lei ne ha il diritto. Io resto lì, sempre zitto, come uno scemo, senza sapere cosa dire. Allora Lynch, con un sorriso ironico, dice: va bene, non risponde, mettiamo a verbale che non risponde. E prima che posso dire qualcosa, ma che cosa potevo poi dire, non so. Quell'altro fa partire il suo ticchettio diabolico, una frazione di secondo e ha già smesso. Merda, ho pensato, qua sono fregato. Quello ha già scritto e adesso resta scritto, ma Lynch rompe ancora il silenzio. Comunque glielo dico io il nome, anzi i nomi, perché li abbiamo arrestati tutti e quattro, i suoi compagni, e mi fa il nome di Celso e di altri 3 che non ho mai sentito. Io penso che non è vero, che me li dice per farmi parlare, è un trucco. E se poi non li hanno arrestati e hanno solo trovato le armi, è neanche quello. Lei li conosce, vero, queste persone? No, non li conosco. Anzi, sì, ne conosco uno. Lo conosco, è Gelso. Ma gli altri 3 non li ho nemmeno sentiti nominare. Sarebbe a questo Gelso che lei ha subaffittato la casa? Maledizione, siamo al punto di prima. Ha preso la cosa da un'altra parte. Io, che Gelso lo conosco, non potevo non dirlo. Ma mica potevo dirgli che gli ho lasciato la casa. Che casino. Resto in silenzio e francamente vado in confusione. Già, a questa domanda lei non vuole rispondere. L'abbiamo già verbalizzato. Ma è ben sicuro? Guardi che ci può ripensare, non è assolutamente grave. Io guardo l'avvocato disperatamente, ma di qualcosa, porco Dio. Aiutami, ma lui mi guardava con la faccia di dire: ma che cazzo stai a menare il camperlaio? E Lince riattacca: va bene, non vuol dire andiamo avanti. Dunque, i tre che lei dice di non conoscere si sono rifiutati di parlare e si sono dichiarati prigionieri politici. Mentre questo Celso che lei ha ammesso di conoscere mi ha detto anche lui questa storia del subaffitto. Dunque, lei non ci perde niente a ammetterlo. Anche se io le devo dire sinceramente che non ci credo, sono convinto che vi siete messi d'accordo prima tra di voi su cosa rispondere, ma stia tranquillo, le indagini proveranno che vi conoscevate e che anche lei sapeva benissimo dell'esistenza di quelle armi in casa sua. E continua, alzando la voce, minaccioso: ma lo sa che a casa sua è stato trovato un vero e proprio arsenale? A chi vuole darla da intendere che lei non ne sapeva nulla? Senta, per il suo bene, io le consiglio di dire tutto quello che sa, se non vuole andare incontro a guai peggiori. Dunque, se vuole, rifacciamo il verbale da capo. Questo lo stracciamo e lei mi racconta veramente le cose come stanno. Lei deve dirmi semplicemente la verità, ma quella vera, non quella che vi siete preparata lei e i suoi compagni. Se lei mi dice la verità, il suo reato potrà ridimensionarsi da quello di banda armata e detenzione di armi a quello di favoreggiamento. Io le garantisco che sosterrò questa tesi davanti al giudice istruttore. Al contrario, insisterò per le imputazioni più pesanti. E lei lo sa, con queste imputazioni rischia anni e anni di carcere. Dopo l'esame di maturità al liceo avevo deciso di andarmene di casa, di non vivere più in famiglia, di lasciare il paese definitivamente e di trasferirmi, darci una casa e di viverci con China e con gli altri compagni che costituivano il nostro gruppo di affinità. Lo chiamavamo così, gruppo di affinità, perché eravamo appunto affini riguardo al nostro modo di vivere. C'era un'intesa tra noi, naturale, su come prendere le cose, su come viverle. C'era una grande tensione a fare insieme le cose, a vivere insieme, tutto il tempo. Eravamo in cinque e per tutti e cinque il movimento costituiva il nostro interesse e il nostro impegno principale. Eravamo due ragazze e tre ragazzi e avevamo deciso di andare a vivere insieme come risultato naturale del nostro rapporto di piccolo gruppo. Tutti e cinque ne avevamo pieni i coglioni di stare in famiglia, di continuare a vivere questi pezzi di tempo in famiglia che poi si limitavano al momento di mangiare e di dormire, al momento di mangiare in cui non c'era niente da dirsi intorno alla tavola, non c'era nessuna comunicazione, non c'era nessun interesse e partecipazione, e a parte questi pezzi di tempo vuoti e estranei che passavamo in famiglia, tutto il resto del tempo lo passavamo in giro, come randagi, nella sede, dentro i luoghi del movimento, coi compagni, e lì sì che c'era interesse, partecipazione, comunicazione, c'era esperienza, sperimentazione, ricerca. Il movimento era la mia famiglia, con le sue decine di case aperte, ospitali, disponibili. Era lì che avevo centinaia di fratelli con cui discutere e fare. I due problemi principali erano i soldi e lo spazio della casa. Lo spazio doveva essere grande, sufficiente a garantire a ognuno una stanza autonoma. Per i soldi c'era qualche problema, perché solo due di noi avevano un'occupazione e quindi un salario fisso. Io e gli altri, che non avevamo lavoro, avremmo dovuto cercarlo, però Cotogno e Gelso dicevano di non preoccuparsi, perché loro potevano garantire l'affitto per i primi tempi e anche per le spese e il mangiare. Si sarebbe fatta cassa comune, chi li aveva li metteva e basta. Poi magari si sarebbe fatto a turno a andare a lavorare. Quelli che adesso lavoravano avrebbero smesso per un po' e avrebbero lavorato gli altri. E così via. Dunque, in fondo, il problema dei soldi era un problema che si poteva risolvere. Abbiamo cominciato a girare, a chiedere alle agenzie, ma non si trovava niente e quello che si trovava aveva dei prezzi che per noi erano impossibili. Poi un giorno Cotogno Girando alla periferia, ha visto una casa, una villetta a due piani, con un piccolo giardino davanti, si vedeva che era sfitta da anni. C'erano le erbacce che si arrampicavano fin su sui muri. Però non c'era nessun cartello di affittasi o vendesi. Abbiamo suonato a qualche campanello delle case vicine, finché abbiamo saputo che il proprietario di quella casa, che era disabitata da 6 anni, era un notaio della città che si chiamava Spinone. Abbiamo guardato nell'elenco e abbiamo trovato l'indirizzo del notaio Spinone e abbiamo deciso di andarci e di farci affittare la casa. Abbiamo deciso di andare dal notaio in 3, Cotogno, io e China. E siccome avevamo a che fare con un notaio, abbiamo pensato che dovevamo vestirci bene. Cotogno per l'occasione si era messo anche una cravatta di suo padre, che faceva orrore a vederla, con un nodo enorme, su una camicia bianca non stirata. In più si era data una spuntata al barbone incolto e si era tirato indietro i capelli lunghi, che aveva sempre arruffati, e ci aveva messo della lacca per schiacciarli giù, solo che ce ne aveva messa troppa, e i capelli erano così schiacciati giù che gli spuntavano fuori dell'enorme orecchia a sventola, da cui però non aveva tolto l'orecchino, che per lui era sacro, e per completare il tutto e avere un'aria seria, si era messo anche un paio di occhiali di tartaruga che gli facevano vedere tutto annebbiato. Quando l'abbiamo visto non l'abbiamo riconosciuto e non abbiamo fatto che ridere per tutto il tempo che abbiamo dovuto aspettare nella sala d'aspetto del notaio Spinone. Al nostro turno Cotogno scatta in piedi e dice perentorio: «Lasciate parlare me». Poi entra nello studio con noi due dietro e il notaio Spinone, che se ne stava sprofondato nella sua poltrona di pelle marrone, dietro un'enorme scrivania tutta decorata e lucida, senza un granello di polvere. Ha avuto un sobbalzo quando si è visto davanti Cotogno. A noi due ha gettato solo un'occhiata rapida e è tornato a fissare Cotogno, visibilmente impressionato dal suo aspetto, ma dato che eravamo dei clienti si è sforzato di sorridere e di chiedere in che cosa ci poteva essere utile. E Cotogno ha subito attaccato con decisione: «Senta, mio cugino qui con la sua fidanzata si devono sposare tra qualche settimana e stanno cercando casa. Lei capisce?» E il notaio sorridente ha fatto di sì con la testa. «Fortuna abbiamo saputo che lei ha una casa sfitta in via Tale e vorremmo affittarla», ha buttato lì Cotogno, ricambiandogli il sorriso. Ma il notaio è diventato subito serio e anche irritato e ha risposto: «No, guardi, che io non ho nessuna intenzione di affittare quella casa. Come ha visto, non c'è nessun cartello. Mi dispiace, buongiorno». E si alza in piedi. «Ah, non ce la vuole affittare?» dice Cotogno. «No», risponde Spinone impaziente, «non è che non la voglio affittare a voi. È che quella casa non è da affittare, come ho già detto». Cotogno si alza anche lui e dice: «Va bene, se è così ci rivediamo». «No, guardi, perché ci dobbiamo rivedere, non c'è nessuna ragione di rivederci». Ma Cotogno insiste: «Buongiorno, ci rivediamo, presto». E va verso la porta, seguito da noi due che non capiamo. Spinone, appena ci vede entrare, diventa paonazzo: «Ma come vi permettete?» Ma Cotogno non lo lascia parlare. «Senti, cocco, adesso ci affitti la casa e senza tante storie». Lui minaccia di chiamare la polizia se non ce ne andiamo immediatamente. Allora Cotogno gli dice che è meglio di no, perché se no salta fuori che lui ha 8 case sfitte su cui per di più non paga nemmeno le tasse. Spinone è sempre più paonazzo. Sembra che è lì per esplodere da un momento all'altro e si sfoga gettandosi con un urlo su China, che indifferente, come se quella storia non la riguardasse, aveva preso dalla scrivania una penna stilografica d'oro e stava svitando il cappuccio. Con un urlo Spinone si getta su di lei e le strappa di mano la stilografica e la rimette al suo posto. È andato alla finestra, la spalanca. «Vieni qui invece di gridare». E quello, senza capire bene, si avvicina. Poi, per stare a distanza da Cotogno, apre la finestra vicina e guarda giù, sulla strada sotto. Sulla strada tutti i compagni si erano messi a guardare su, verso le finestre aperte. E come succede, anche i passanti si erano fermati a guardare su, qualche minuto, con la folla che guardava su, senza capire che cosa stava succedendo. A quel punto un compagno srotola un grande foglio, su cui c'è scritto «Spinone, fai il bravo, dacci la casa». Spinone si tira indietro, pallido, e soffia con un filo di voce «Mafiosi, delinquenti!». Cotogno gli si avvicina e, guardandolo fisso, gli dice «Delinquente sei tu, che sei uno speculatore di merda. Noi la sua casa te la paghiamo, vogliamo un affitto regolare, facci un contratto, se no chiamiamo noi la polizia e ti denunciamo. Vuoi che la chiamo subito la polizia? Guarda che lo chiamo», dice Cotogno, appoggiando la mano sul telefono. Barcollando, Spinone torna alla sua scrivania, si lascia cadere sulla poltrona e rimane in silenzio per qualche minuto, mordendosi le labbra, mentre dalle finestre aperte si sentiva il coro dei compagni. «Spinone, dacci la casa! Spinone, dacci la casa!». Spinone era ormai cotto. Ha tentato di dire «Va bene, ma ci devo riflettere. Tornate tra qualche giorno, ci vuole il suo tempo per fare un contratto». «Neanche per sogno», gli ha detto duro Cotogno, sedendosi sulla scrivania. «Tu il contratto ce lo fai ora, e subito, se no non andiamo via, e anzi, facciamo venire su anche i nostri amici, che sono sotto». E così, alla fine, visto che non c'era niente da fare, Spinone ha ceduto. È così che abbiamo avuto quella casa, che però poi è stata l'origine di tutti i miei guai. Libri ribelli. Libri ribelli.